già vissuto l'espressione fiera che non è un rifiuto, se no quanto basta a riempir la mano, fianchi dove affonda qualunque capitano. Costano, le donne costano, più dei motori, dei gioielli e delle lacrime. Ballano, le donne ballano, ma quelle vere sono rare e non si comprano. Tu le puoi prendere, ma non comprendere. Dice il talismano che la buona moglie perde con il nome tutte le voglie. Stira la vocaccia, anche orizzontale, e questo per un uomo sarebbe l'ideale, sarebbe l'ideale. Bella non è tutto, meglio affascinante, e una volta a letto deve essere importante. Tenere e crudele quando innamorata, ma non avere miele per la fame di un pirata. Costano,